Placebo. Pillole agrodolci senza effetti collaterali. Allora, uno degli sport preferiti in Italia è cercare i colpevoli, dire che è colpa degli altri, di quelli che si comportano in modo diverso da noi finché anche noi ci comportiamo come quelli che stiamo criticando. Il comportamento oggetto della critica a quel punto diventa consentito se anche noi facciamo così. Lo stesso sta succedendo anche ora per il coronavirus e la cosiddetta movida, termine che ormai solo a sentirlo mi viene l'orticaria. Se invece di movida usassimo per esempio uscire per andare a bere un aperitivo e fare quattro chiacchiere, probabilmente il comportamento sembrerebbe meno lascivo. Invece il termine movida, che sicuramente ha il pregio della sinteticità, evoca altri tipi di comportamenti, soprattutto riferiti ai giovani. Non so esattamente perché, ma sentendo movida, come viene sempre detto, pronunciata, immagino gente che beve molto, molti alcolici, si lascia andare a cazzeggio sfrenato, si lancia in manovre erotiche preliminari, butta via soldi, consuma droga, ride sguaiatamente, mentre sorsi di mojito cadono dalle labbra fino all'ombelico, inondando la camicia aperta. Movida dall'idea di gente che va su e giù a fare le vasche nei centri storici col solo obiettivo di ubriacarsi e di provarci con donne e uomini compiacenti anche solo per qualche sera, compiacenti e disponibili a denudarsi rapidamente dentro a qualche bagno di qualche bar per consumare fugaci rapporti sessuali per poi tornare a rituffarsi in altri alcolici e droghe più pesanti. Forse è così che viene intesa la movida dalla nostra politica, quindi dicono non è tempo di movida. Se si dicesse non è tempo di aperitivi e passeggiate, forse tutti sarebbero meno attratti dalla movida e preferirebbero rimanere a casa o nel bar sotto casa a bere una cedrata. Ma si va in centro, di fatto con l'obiettivo solo di divertirsi un po'. E se si va, si viene immediatamente ripresi dalle solerti telecamere delle varie testate che sono quindi pronte a identificare i movidosi come responsabili di tutte le morti addebitabili al coronavirus con il solito atteggiamento paternalista. D'altra parte i centri storici pullulano di forze dell'ordine e in caso di necessità credo che sarebbero in grado di mitigare la situazione, ma adesso, come prima erano stati i runner, sono i movidosi i colpevoli. Ci deve essere una scala di valori a me ignota per cui fare certe cose è socialmente accettabile anche in forma di assembramento più o meno evidente e invece farne altre no. Per esempio, ci si può assembrare senza troppi rimbrotti se si va in massa a cogliere le non dichiarazioni di Silvio Romano, mandati magari da quegli stessi direttori che poi criticano pesantemente i giovani che cercano il contatto umano nella cosiddetta movida. Ci si può assembrare, sicuramente in modo meno evidente, per partecipare a una messa, ma al momento non lo si può fare per assistere a uno spettacolo che certamente rappresenta una forma di celebrazione meno elevata che però per qualcuno ha una certa importanza. Si può andare al mare per entrare subito in acqua e fare il bagno, nuotando atleticamente con vigorose bracciate, mentre è più socialmente disdicevole e criticabile rimanere a prendere il sole, perché pare atteggiamento di pura vanità, finalizzato poi ad atteggiamenti lussuriosi, anzi movidosi. Insomma, nei periodi difficili emerge sempre il nostro caro vecchio moralismo paternalista, condiviso a quasi tutti i mezzi di informazione, tutti i TG diventano TGS, telegiornale Savonarola, e gli aperitivi, e non gli errori anche politici che sono stati fatti, gli aperitivi e i party diventano i veri responsabili del coronavirus, che a quel party evidentemente anche il coronavirus partecipa volentieri. Chissà, forse anche lui il coronavirus si era stancato del lockdown e aveva voglia di fare un po' di movida. Placebo. Pillole agrodolci senza effetti collaterali. Allora, a mio parere, il coronavirus un effetto positivo ce l'ha avuto e continua ad averlo. Quest'anno, nel 2020, sono stati fin qui annullati già 20.000 matrimoni, effetto positivo, e molti di più salteranno in estate. Tutto è rimandato all'anno prossimo, ma non è detto che da qui a un anno i due sventurati non possano cambiare idea. Il matrimonio, in particolare il giorno del matrimonio, è sempre drammatico per quelli che partecipano. La sposa, di regola, è sempre molto tesa, si sente addosso gli occhi degli invitati. Ingabbiata com'è in quell'abito bianco ormai del tutto anacronistico, rischia quasi sempre una crisi di nervi già prima del fatidico sì.

Forse per questo che appena possiamo cerchiamo i rumori, cerchiamo la cosiddetta movida, perché altrimenti ci sembra di essere come su quel treno, mentre fuori succede qualcosa e noi, uomini come tutti gli altri, ne siamo esclusi. Siamo esclusi dal resto della comunità umana, siamo esclusi in fondo dalla vita. Placebo. Pillole agrodolci senza effetti collaterali. Allora oggi nella seconda parte ci occuperemo della vicenda di Silvia e Alessandro, due clochard di Como, che nonostante tutte le difficoltà del caso e anche nonostante alcuni problemi di salute hanno deciso di sposarsi. Questa storia mi ha subito ricordato una canzone di Enzo Iannacci, El Purtai Scarda Tennis, cioè la storia appunto di un senza tetto che sulla strada per andare all'idroscalo qui a Milano vede una donna bianca e rossa che pareva il tricolore, dice il testo. Era lì e l'amore lo colpì. E anche lui, nonostante non avesse fissa dimora, nonostante non avesse nulla, nonostante una vita così evidentemente complicata, riesce a provare quel sentimento così forte che forse è l'unico che ci dà il senso completo della vita. E così nelle nostre vite, da quando gli ormoni maschili e femminili cominciano a sferzare il nostro cuoricino e anche altre parti del corpo, l'idea o la speranza di trovare l'anima gemella diventa una specie di chiodo fisso e spesso ci si immola a quell'ideale, molte volte inesistente. Però ci si prova ed è giusto provarci anche con parecchi sacrifici. Cerchiamo tutti, cercano tutti l'amore vero con la E maiuscola, dove E sta per eterno. L'amore che dura per sempre finché un animatore di un villaggio, un collega d'ufficio, una cubista non li separi. Per trovarlo, quell'amore si fa di tutto. Prima cosa, si cerca di rendersi presentabili. L'uomo va in palestra oppure mette la panciera. Una volta c'era quella del dottor Gibot. La donna va in palestra anche lei per tonificarsi e magari indossa un bel reggiseno imbottito. Come dire che l'amore per sempre, che dovrebbe basarsi su affinità elettive, passa invece principalmente dalle maniglie dell'amore e dal corpo più o meno rassodato da qualche personal trainer. Quindi si parte già col piede sbagliato. Il secondo inghippo sta nei primi appuntamenti, dove si cerca di dare sempre una immagine edulcorata di sé. Quando si esce a cena le prime volte, invece di rappresentarsi per come si è realmente, si cerca sempre di fingersi più interessanti di quello che si è. L'uomo cerca di non parlare di calcio e di altre donne che in passato hanno farcito il suo immaginario erotico. La donna cerca di non dare l'impressione di essere sempre a dieta, perciò nella solita insalata ipocalorica si fa aggiungere anche una mozzarellina. Poi c'è la terza fase, quella in cui uscendo dal ristorante e magari passeggiando al chiaro di luna in queste belle serate primaverili, ognuno si confessa un po' all'altro, svelando i propri sogni, le proprie speranze. Vorrei occuparmi seriamente di volontariato, dice lei ripensando alla mozzarellina che forse le ha rovinato la dieta. Anch'io, almeno di domenica, vorrei fare qualcosa di utile per gli altri, dice lui, senza considerare che però così facendo dovrebbe rinunciare, per esempio, alle partite della Pro Sesto, unico vero interesse della vita. Se entrambi hanno mentito bene, sotto casa si può arrivare perfino al primo bacio ed eventualmente fino all'altare, partendo però da presupposti assai poco sani. E allora hanno fatto bene con totale onestà a sposarsi due clochard di Como, Silvia e Alessandro, che non avendo niente da fingere, hanno deciso di coronare il loro sogno d'amore, che probabilmente, quello sì, durerà per sempre, perché non parte da una rappresentazione parateatrale, ma dalla conoscenza della verità, l'unica che di solito può garantire l'amore per sempre, finché dura. Yeah!